girato il verde? Allora, bomba! Sveglia! Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta e Giovanni Capuano. I know I could lie, but I'm telling the truth. 'Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Ed eccolo il fischio finale. L'Italia batte il Brasile 9-3 qui all'esordio olimpico. Per un tempo e mezzo è stato un sette rosa opaco, in ombra, bloccato dall'emozione, doveva rompere il ghiaccio. Poi il miglior sette rosa visto in questa vasca. Prova con arriva Lippon al gol del score di Matteo Marconcini, che esulta. Carabiniere di Arezzo vince al golden score, riuscendo dunque a qualificarsi per i quarti di finale. Siamo al verdetto, verdetto unanime, angolo rosso, Lázaro Jorge Alvarez, come è normale e come è giusto. E come giusto, obiettivamente, sì, dobbiamo riconoscere, sì, sì, sì, è stato, sì, superiore. Un grande campione davanti, ma Carmine ha dato tutto. Scorrono i secondi. Sì, ed è la quindicesima stoccata, Enrico Garozzo, dunque si è sbloccato subito del primo assalto del tabellone dei 32, adesso nei 16. La prossima sfida con un altro asiatico e si tratterà del... di Park. La sfida con Park è in corso per Enrico Garozzo. Allora, prima cosa, Leonardo Sirigato e Lorenzo Rotella, sbaglio ogni giorno i cognomi dei nostri colleghi, che sono rimbambito io, mica peraltro. In redazione Claudia Schiattone, il nostro autore, Pietro Lacorte in regia. Non sbaglio mai il nome di Giovanni Capuano. Ciao Carlo, buona serata. Ciao a tutti. Abbiamo sentito una spremuta sonora di quello che è successo oggi, ancora nessuna medaglia. Ti do subito un aggiornamento, purtroppo è finita la corsa di Matteo Marconcini nel judo, proprio pochi istanti fa, pochi secondi fa. Non potevi cominciare con una buona notizia, anche mentendo. Ha perso il quarto di finale. Potevi dire una bugia, poi ci correggiamo. Ha vinto il quarto di finale. Voglio capire se i nostri ascoltatori stanno dormendo in attesa della notte della divina Federica Pellegrini in vasca per la finale dei 200 alle ore 3 e... 3:19 19, puntate la sveglia, magari non alle 3:18, perché serve tempo per fare il caffè, riprendersi, capire dove, in che parte del mondo ci si trova e poi guardare Federica Pellegrini. Voglio capire se state dormendo. 800 24 00 24 è il nostro numero verde, se venite a farci compagnia ci fa piacere. Volete un tema? Ma trovatelo da soli in questa Olimpiade che diversi ce ne offre. Fatto un gran parlare, l'abbiamo sentito anche prima nel servizio di Anna Migliorati nel giornale radio. Uno degli argomenti di giornata è la rimozione, diciamo così, forzata. Hanno licenziato, si fa prima, no? Di Giuseppe Tassi, direttore di QS, per quel titolo, il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico, dedicato, si fa per dire, alle tre protagoniste del tiro con l'arco azzurre. Ciao Dario Ricci, Dario, nostro inviato. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Sono dove sei? Firma, Sono proprio qui nel palazzetto dello sport della scherma, Arena Carioca 3. In pedana c'è Enrico Garozzo contro Park e l'azzurro è sotto 11-8 in questo istante, quando mancano 38 secondi alla fine del secondo tempo dell'assalto. Finora Park bravo a trovare le misure giuste ad affondare le stoccate contro un Garozzo che è centrato in almeno un paio di occasioni sorpreso dalla tattica del coreano. Sembra quasi che la spedizione azzurra si stia facendo un po' da parte per lasciare la ribalta a Federica Pellegrini, perché appunto i risultati della mattina non sono meravigliosi. C'è stato il facile successo del sette bello, come sentivamo nella copertina, un pezzo bello un po' assonnato, che è stato anche aiutato dal calendario, perché comunque l'esordio col Brasile era il più morbido che si sarebbe potuto ottenere in questo girone olimpico. Altra cosa sarà con Australia e Russia. Tra l'altro, altro tema di giornata, i fischi agli atleti russi. Bene, qua in pedana, come sentite, c'è solo parecchio tifo, soprattutto perché si stanno affrontando il russo Avdeyev e il giapponese Minobe, pedana a fianco a quella dove è impegnato Garozzo, che intanto è risalito ed è sotto di due stoccate, un 19. Beh, finora qui, almeno in pedana, nella pedana della ferma, non ci sono fischi per nessuno, solo un bel tifo, come potete sentire, da parte delle due delegazioni giapponese, sì, nipponica e russa, davvero numerose. Beh dai, siamo lì, 9-11 sotto Enrico Garozzo, fratello di Daniele Oro, l'altro giorno. È appena finito il secondo dei tre tempi, diciamo che gli altri due spadisti non hanno fatto bene, Paolo Pizzo e Marco Fichera, tutti e due fuori nel primo turno, e quindi hanno chiuso immediatamente, sì, la loro Olimpiade. In realtà qualcosa di positivo abbiamo visto, l'abbiamo visto, poi avremo modo di parlarne, nel bacino del canotaggio, perché abbiamo tre armi che sono in finale, tutte e tre con ottimi tempi, il 2 senza Bagnale di Costanzo, secondo tempo, il 4 pesi leggeri, che addirittura va in finale con il primo tempo assoluto, quindi si candida per una medaglia, e poi il doppio maschile, che è in finale con il quarto tempo. Poi abbiamo perso Carmine Tommasone nel pugilato, è stato sconfitto da Alvarez, il cubano. Questa notte avevamo perso Mangiacapre, che si era qualificato ma si è rotto lo zigomo, e così come Vincenzo Nibali è stato rimandato a casa per curarsi. Oggi è una giornata interessante nel tennis, nel beach volley stanno giocando le nostre Menegatti Giombini e stanno vincendo contro le egiziane. Insomma, c'è tanto da raccontare. Vi dico anche che sono iniziate le batterie del nuoto in attesa della Divina questa notte, ed è un pomeriggio intenso, perché ad esempio fra pochi minuti vedremo Filippo Magnini e Luca Dotto nei 100 stili libero. Giovanni, raccontami, mentre io sto raccogliendo messaggi, 349-238-6666, aspetto anche i vostri WhatsApp su un tema che adesso vi darò, anzi lo do subito, cosa dite? Vi faccio sentire una cosa che ha detto, un'imitazione che ha fatto Fabio Basile, Oro nel Judo. O prima che esca la capo, fuori un sacco c'ha taglia, usavi i macchi, gioco di me fila, io ogni anno mi piglio un viz, poi le faccio a me. L'uomo che può fare a me tutte cose, non delle paure, niente. E allora, questo Luca Basile, personaggino questo Luca Basile. Gran bel personaggio, sono stati 21 anni, o forse proprio grazie ai 21 anni, alla freschezza della gioventù. Mandateci le vostre imitazioni su WhatsApp vocale 349-238-6666. Sto ricevendo diversi messaggi su quel titolo, relativo alle cicciottelle. Io le trovo splendide, scrive Ernesto. Vorrei esprimere solidarietà a Giuseppe Tassi, ma un po' di ironia no, scrive Stefano. Come avrebbe definito Tassi un'eventuale vittoria della Pellegrini e quattro faccine che muoiono dal ridere? Non mi pare magro il rimosso, scrive Nicola. Oppure ce n'era uno che mi aveva fatto ridere prima mentre parlavi di un'altra cosa. Lui ha detto, nemmeno se mi pagano mi alzo per vedere la Pellegrini. Io vorrei, sì, che questo ascoltatore così cinico ci chiamasse per discuterne. Mi spieghi, Giovanni Capuano, esattamente cosa è successo? Dario Origine faceva accenno nella piscina tra, abbiamo sentito prima leggere, tra Kinga e la Efimova. È successo questo, è successo intanto che l'avversaria della Efimova, nuotatrice russa, prima esclusa per il suo passato per il doping e anche per il suo presente per il doping, e poi riammessa proprio alla vigilia dei giochi dalla Federnuoto, che questa notte ha vinto l'argento nei 100 rana. Prima c'è stato questo gestaccio di Lily King, l'avversaria americana, che ombrello, insomma, che non ha gradito che la inquadrassero, anche che facessero vedere l'esultanza della Efimova. Ci sono stati i fischi, tanti, del pubblico, fischi che stanno un po' accompagnando tutti gli atleti russi del nuoto, e che hanno anche fatto arrabbiare il CIO, che ha preso posizione. La Efimova non ha retto dal punto di vista di Neri. Magari la possiamo anche far sentire, questo pianto, sì, della nuotatrice russa. Alla fine della gara, il pianto della Efimova. Poi vi dico anche cosa ha detto Michael Phelps, un altro fenomeno che questa notte rivediamo. Mm-hmm. Sentiamo la Efimova, però. У меня была, мягко говоря, сторона подготовка, это не то слово, со всеми нервами, со всем, что было. Злость, это, конечно, хорошо, но также нужны еще тренировки. Ecco, questa è l'Efimova che piange. Sì. Phelps ha detto, la sua presenza, la presenza dell'Efimova ai giochi mi spezza il cuore, mi fa letteralmente incazzare. È un giorno triste non solo per il nuoto ma per tutto lo sport, e questo è un po' un tema, e noi stiamo ancora aspettando tra l'altro il verdetto su Alex Vazer. Esatto, questo è un altro grande tema. Intanto Garozzo è... e adesso facciamo raccontare il finale a Dario Ricci appena dopo il traffico. Subito dopo il traffico vediamo il finale di questo assalto di Enrico Garozzo contro Parks, quarti di finale. Boom, boom, boom, boom, boom. Perché lui di esperienza mi batteva, a lui bisognava tirargli la bomba. Colpo secco, colpo secco. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. A Rio de Janeiro, Dario Ricci alla scherma. Niente da fare, niente da fare, ragazzi, niente da fare. Enrico Garozzo è stato sconfitto proprio in questo istante dal coreano Park per 15-12, e quindi i nostri stadisti escono di scena sicuramente troppo presto. Il Park adesso se la vedrà tra l'altro con quell'Inter, con lo svizzero Inter, che aveva eliminato al primo turno Paolo Pizzo. Niente da fare, questa volta nessuna medaglia arriverà dalla pedana della scherma. Almeno per oggi, spiace. Almeno per oggi, ma abbiamo fiducia. Spiace, spiace. Spiace, spiace. Chiaro che spiace. Comunque Garozzo, Enrico Garozzo battuto 15-12. Dario, ci prendiamo dopo? Ti lascio, sì, sì, sì, assolutamente. Ti lascio muovere a tuo piacimento nel parco giochi delle Olimpiadi, perché le Olimpiadi sono una meravigliosa Disneyland per adulti o bambini che amano lo sport. Tanto Filippo Magnini ha nuotato la sua batteria nei 100 stile libero 49:40, e non è un bel tempo, in questo momento è tredicesimo, passano soltanto i primi 16 alle semifinali e mancano ancora tanti che devono nuotare, quindi non si mette benissimo per Filippo Magnini. C'è un ascoltatore che scrive: mortacci vostri, mi sono svegliato alle 5:30, ho fatto 750 km per lavoro, magari stessi dormendo. È Marco, perché io ho invitato i nostri ascoltatori sonnolenti, perché stanno aspettando tutte le notti olimpiche, la divina alle 3:19 in acqua, li ho invitati a chiamarci, a farci compagnia. 800 24 00 24 è il numero verde. Oppure, se mai, a mandarci un messaggio vocale WhatsApp facendo una bella imitazione di chi vi pare, di chi pare a voi, anche di Leo Turrini. Ciao Leo. Come state? Tutto bene? Adesso sì, adesso che ti sento, sì. So che sei sano e salvo. Voglio darvi subito una notizia meravigliosa. Sono venuto nella mattinata brasiliana al beach volley qui a Copacabana. No? So io cosa sei andato a fare al beach volley. Fatemi dire. Tra le due azzurre e le due egiziane, no? Quindi c'era anche un confronto tra culture, le nostre in bikini, le due ragazze egiziane invece bardate come vuole la loro tradizione religiosa. La partita non è stata in sé granché, perché le nostre erano superiori, hanno vinto facilmente, ma attenzione, chi ho trovato sugli spalti? Volete sapere chi ho trovato sugli spalti? Marchionne, Renzi? No, ho trovato l'avvocato Panitz. Legale che convinse metà Parlamento che Rubi era la nipote di Mubarak. Nonché presidente, credo, dello Juve Club. A vedere le egiziane del beach. Il che significa che siamo di fronte a un classico caso di deformazione professionale. L'avvocato Panitz è un mio grande amico, l'ho abbracciato e ho detto: avvocato, ma Rubi quando arriva? Forse nel prossimo turno, non possiamo saperlo, ma è una storia olimpica meravigliosa. L'egiziane e l'avvocato Panitz, la nipote di Mubarak, è qui che lotta e soffre insieme a noi. Ed è giusto che tutti quelli che seguono questa trasmissione fantastica di Carlo Genta e del suo sodale, del quale in questo momento mi sfugge il nome, perché sei molto affaticato. Tutti convocati all'Olimpiade, c'è anche l'avvocato Panitz e sta arrivando anche Rubi. Grazie. Carissimo Leo, io ti devo dare due notizie. La prima brutta è che Filippo Magnini è già fuori dalla semifinale, in questo momento è 21esimo, ma ha nuotato davvero male, sesto nella sua batteria, un disastro. La seconda è che invece ha appena finito la sua batteria Santo Condorelli. Ora tu mi dirai, chi è Santo Condorelli? Santo Condorelli è quel nuotatore canadese che sta diventando famosissimo, perché è parente di quelli dei Toroncini, perché prima di tutte le gare lui mostra il dito medio al padre Josef, che è anche ex allenatore, che è sempre in tribuna, e ha avuto anche qualche problema, perché insomma in tante gare hanno detto ma come tu col pubblico ti squalifichiamo, e invece è una roba che si è messo d'accordo col padre da quando avevano 8 anni, da quando lui aveva 8 anni, e il padre gli fa anche lui il dito medio, cioè, invece di mandargli un bacino è un gesto affettuoso, è un gesto d'affetto che ci riserviamo. Ha fatto Santo Condorelli, ha fatto 48-22, quasi certamente va in semifinale. Ma che divina la Pellegrini, spero di sbagliarmi ma non prende la medaglia, altro che sveglia alle 3 di notte, scrive un altro ascoltatore molto cinico. Ma dopo le partite da pallavolo femminile Bonita verrà licenziato via SMS, scrive un altro ascoltatore malizioso. Ma che non va, ha scritto la Diouf. Ha scritto la Diouf. aspetta che vado a vedere. Di SMS perisce, vero? Senti, ma a proposito di piscine, c'è Fortunato da Belluno che vuole parlare dell'egiziana del beach volley, e toccherà una domanda a Leo Turrini oppure a Paniz. Quindi ha assolutamente la priorità, Fortunato. Decidete voi. A proposito di gestacci, King e Fimova, come la vedi, Leo? Ma ho sentito i fischi, voglio dire, insomma noi qui siamo in un'Olimpiade in bilico, no? Io sono anche passato dall'albergo dove è stato celebrato questo processo ancora senza sentenza, Alex Schwarzer. Tra l'altro vi voglio dire che Schwarzer stamattina si allenava, potete immaginare con quale stato d'animo, per le strade, i parchi di Rio. È evidente che quando si arriva al punto che non pochi atleti presenti qui, penso anche a Gatlin, quello che sfiderà Bolt sui 100 metri, no? Hanno alle spalle storie di doping, sanzioni scontate, tutto il resto, poi ci possa essere, dicevo, evidentemente una reazione popolare da parte di chi non crede nella famosa seconda opportunità. Beh, popolare o meno, popolare o meno, perché anche Fels è andato giù duro. No, ma allora io vorrei spiegarmi bene. Se noi sosteniamo una volta per tutte che non ci deve essere seconda opportunità, cioè, facciamo questa legge a livello di Comitato Olimpico Internazionale, tutte le federazioni, basta una volta e tu sei fuori per sempre. Che è una buona soluzione. Io ci sto, anch'io. Cioè, voglio dire, anch'io. Non sono mica a oppormi. Finché però vige la normativa attuale, soprattutto se l'atleta, uomo o donna che sia, ha scontato la pena che gli è stata inflitta, allora dopo io non vi voglio citare Beccaria, la rieducazione, la nostra Costituzione, eccetera. Adesso abbiamo regole che dicono che alla prima infrazione del controllo antidoping tu vieni squalificato, ma non radiato, non certo, per certo. Questa è la legge, se vogliamo cambiarla possiamo pure farla, la pena draconiana. Una volta e sei fuori, quindi diventa anche dal punto di vista economico meno conveniente, no, ricorrere alle pratiche del diavolo. Sì, no, ma Carlo, ci sono tante motivazioni a sostegno di questa severità che tu hai definito giustamente, ragazzi, perché hai studiato, io no, draconiana, no? Ma voglio dire, è così, però è così. Nel presente le storie sono, la legge è diversa. No, guarda, siccome abbiamo citato Schwarzer, no? Allora, vado avanti. Io non ho trovato giusto che quando è rientrato alle competizioni, dopo una squalifica di 3 anni e 9 mesi, senza nemmeno un giorno di abbuono, ci sia stata gente anche simpatica, che io stimo tantissimo, eccetera, eccetera, eccetera, che ha detto preventivamente è una vergogna, non gli dovevano consentire di tornare. Perché se questa è la regola vigente... E certo, allora non, se questa non, è la regola non vigente, stiamo alle norme. No, ma hai ragione su tutti i fronti. D'altra parte eravamo insieme a vedere Gatlin che vinceva i 100 metri ad Atene con tutto quello che ne è conseguito. Io saluto e ringrazio di nuovo un campionissimo, Antonio Rossi, che è tornato a farci compagnia. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Senti, ti lascio alla prima domanda, alla prima considerazione di Giovanni Capuano. Ma intanto io vi do una buona notizia, che Luca Dotto si è qualificato per la semifinale, eh? Decimo tempo 48-47, Magnini fuori, Dotto in semifinale dei 100 stile libero. E, beh, insomma, noi continuiamo a essere, Antonio, ci eravamo sentiti settimana scorsa anche un po' pessimisti, ancora siamo quarti nel medagliere. Io non so come state vivendo voi a Rio questi primi giorni di Olimpiade. Io li trovo esaltanti per l'Italia. Beh, guarda, veramente c'è un grande entusiasmo. Dopo la prima giornata, dove si poteva raccogliere onestamente di più, anche insomma, anche guardando Nibali e vi dicendo, abbiamo cominciato a fare dei risultati importanti. Poi anche oggi, insomma, in varie discipline ci sono stati delle finali, degli ingressi in finale, quindi che ci fanno ben sperare per i prossimi giorni. Quindi c'è un clima di grande entusiasmo e poi è veramente una gioia, insomma, vedere anche gli atleti quando vengono a Casa Italia, insomma, la loro soddisfazione. Certo, poi noi scherziamo perché siamo i 20 anni di Basile, i 46 di Pegliello, siamo fatti un po', certo, così, no? Beh, Johnny, guarda, è stato bravissimo, lui vuole continuare fino a Tokyo 2020, quindi credo che si stia proponendo anche per essere il prossimo portabandiera. Ma è più giovane o più vecchio di te? Non lo so, questo non lo so. Lui è del 70, lui è la quarta, no, del 71, medaglia. Lui è del 70-71. Ecco, allora è più giovane. Più giovane. Perché 78, e allora perché ti sei ritirato? Perché ti sei ritirato? perché sono due sport diversi, diciamo. Che ma leggermente, sì, leggermente. Leggermente diverso, anche lo sforzo fisico probabilmente diverso, cioè bisogna avere due talenti differenti, quindi nel tiro probabilmente si riesce ad andare più avanti, che poi credo che Johnny abbia delle motivazioni, insomma, dopo quattro ore, insomma, voglia anche puntare all'oro, quindi insomma, dopo quattro argenti, quindi insomma, l'ho visto veramente felice ieri a Casa Italia. Leo Turrini, facciamo tornare Antonio Rossi? Beh, io volevo chiedere subito al mitico Antonio, so che nelle finali della canoa, mi pare proprio di domani, abbiamo un paio di rappresentanti che sono andati fortissimo nelle qualificazioni, eh? Caspita, veramente molto bene. De Gennaro e la Horn hanno vinto il primo turno delle qualificazioni, miglior tempo. Domani iniziano le finali maschile, quindi insomma, questo ci fa ben sperare. Antonio, l'altro giorno abbiamo sentito Josef Aidem e abbiamo riferito di quanto tu ci dicevi l'altro giorno, cioè di quegli ultimi 100 metri della famosa finale, quando pensavi alla telecronaca di Bistecone Galeazzi. Sì. Lei non ci credeva, ti dico, lei non ci credeva. Ha detto che non è possibile. Ha detto no, non è possibile. Quando sei in canoa ti vengono in mente vari pensieri alla rinfusa, io non ci credo. E invece ho detto no, ma me l'ha detto Antonio. Ha fatto tutte gare dove l'ha lottata fino alla fine, anche a Londra, insomma, è arrivata a seconda per un niente. Sì. Io invece a Sydney, ma solamente a Sydney, perché poi le altre invece non certo pensavo ai commenti di Giampiero. Uh-huh. A Sydney ai 500 metri vi posso assicurare che già sapevo di poter vincere, quindi agli ultimi 200 metri ho pensato anche a quello. Pensa che c'era Leo Turrini, che a quella finale che era così scontata che si è addormentato, vero Turrini? No, diciamo così, si vede che non sentiva, Giampiero. No, allora, si è addormentato. Ha detto faccio un pisolino. Gli è venuta una botta di sonno perché era scontata. No, non è vero. Io devo dire che, insomma, quando si è un'Olimpiade, qualunque sia la gara, e c'è un italiano, almeno vale per me, è un'emozione che senti salire, che ti coinvolge. Ieri guardavo ad esempio Pegliello, che avete evocato, no? E mi sono ricordato che gli feci la prima intervista a Barcellona quasi un quarto di secolo fa. Mm. Sono quelle cose che poi ti rimangono dentro, no? Perché anche la longevità dei campioni, qualunque sia la disciplina, è un valore. Certo. Io infatti sono sicuro che quando Pegliello ha detto ci riproverò a Tokyo, era assolutamente sincero, cioè non stava, diciamo, bleffando, comunque no, ma pronunciando anche una frase vagamente consolatoria. Mi viene in mente, guarda, c'era uno nello skit che si chiama Benelli, sì, ricordo, che vinse nel 2004 ad Atene, che secondo me era già ad Atene nel 1896, perché me lo ricordo che era praticamente a tutte le Olimpiadi c'era questo Benelli, capito? E vinse la seconda volta che si presentò ad Atene nel 1896, non figura nell'Albo d'Oro, ma c'era senz'altro, è un toscano simpaticissimo, lo saluto con affetto. Io spero che Johnny possa... ma anche perché, anche perché è l'ultima considerazione che gira ad Antonio Rossi: tutti quelli che prendono la medaglia d'argento non vedono l'ora che passino i prossimi 4 anni. Abbiamo sentito anche Odè Giuffrida l'altro giorno dire: preso l'argento, voglio andare a Tokyo adesso. Johnny era veramente contento, poi mi ha detto che è un campo difficile perché c'è tanto vento, e poi ha fatto una battuta veramente simpatica, ha detto che apre un ristorante dove si servono solo secondi. Meravigliosa. Meravigliosa. Grazie Antonio, alla prossima, ciao. Grazie, ma intanto mi hanno corretto, Marconcini è stato eliminato, ma non è stato eliminato, è il ripescaggio. Quindi lo diciamo, chiediamo scusa. Allora 800 24 00 24, se non state dormendo in attesa della divina Federica Pellegrini nel 3:19 di questa notte, chiamateci. Borsa, torniamo. Wow, gente capuano, state senza pensieri. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Quando parla Leo Turrini sembra di sentir parlare Loris Batacchi del film di Fantozzi, che si do di spatola perché sono un uomo coi fiocchi e coi maroni. Meraviglioso, grazie. Mandateci i vostri WhatsApp con 349-238-6666. 349-238-6666. Imitazione vocale. Di Leo, capito Turrini? Fantastico. Ho sentito, ma io faccio da cavia per qualunque vostra iniziativa, non c'è problema, mi offro volontario, va tutto bene. No, va tutto bene. C'è un ascoltatore che, mentre c'è un altro campionissimo di cui ho l'onore di essere amico, ed è Andrea Zorzi collegato con noi. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Come ben stai? Trovati. Ti vedo su Sky, non ti vedo più da queste parti e mi dispiace molto, te lo devo dire, lo dichiaro pubblicamente in Mondovisione. Anzi, in mondo, magari mondo audizione. Riusciamo a ritrovare un po' il ritmo con il Verona. A proposito di Leo Turrini, che tu sai che ha un passato anche nella pallavolo illustrissimo. Lo so perfettamente. È stato l'unico giornalista in vita mia a cui ho chiesto di leggere l'intervista prima di essere pubblicata, tanto lo temevo. Davvero? Davvero? Sì, non me l'ha fatta leggere. È così stronzo Turrini? Devo dire, saluto Zorro. Che lui è l'unico campione che ha ottenuto da me questo privilegio per l'affetto che gli volevo. Nemmeno il mio caro amico Senna osò spingersi a tanto. Però Zorro era Zorro, e tra l'altro vi devo dire, insomma, mi fate fare un bagno di giovinezza. Vi ho detto che sono qui al Beach, adesso vado a vedere Italia e Stati Uniti in palestra. Allora, stamattina ho trovato qui Andrea Lucchetta, che fu il capitano dell'Italia di Zorro, bene, che proprio a Rio si laureò per la prima volta iridata nel 1990. E tu c'eri? E io c'ero già ai mondiali del 1950, quindi poi... E in più, l'Argentina di Julio Velasco, che era l'allenatore di quell'Italia, nostro filosofo, ha battuto poco fa la Russia 3-1, un risultato clamoroso nel torneo maschile. Quindi, insomma, come dice Stephen King, a volte ritornano, ma sia chiaro che io, se Zorzi di nuovo volesse concedermi un'intervista esigendo di rivedere la prima pubblicazione, per lui questo è d'altro. Senti, già che ci sei... molto preoccupato. Sì, no, lo so, perché Turri è cattivissimo, lo so bene, è perfido, è una iena. Esprimi a Zorro la tua convinzione sulla nazionale maschile di pallavolo, Leo, che gliela facciamo commentare. Ma allora, guarda, noi abbiamo una squadra che potrebbe essere la grande sorpresa del maschile, perché come si è già visto in Coppa del Mondo, quando ci siamo qualificati brillantemente, l'innesto di Juan Toregna, che come si capisce dal cognome ha la mamma di Pantelleria e il papà di Bolzano, ha fatto fare a questa squadra un salto di qualità a livello tecnico strepitoso. Dipenderà molto anche dalle condizioni psicologiche, perché Zorro lo sa, perché c'è passato da giocatore. Il torneo di pallavolo alle Olimpiadi è piuttosto bizzarro e strano, fai questo girone, giochi 5 partite, vai sicuramente ai quarti, e poi lì dipende anche tutto dall'abbinamento e da come stai di testa in quel giorno lì, eh? Perché noi abbiamo iniziato alla grandissima battendo la Francia, però è fuori discussione che la prima fase la passiamo, è la prossima settimana che si deciderà tutto. Io il dubbio che ho su questa squadra è che non ha mai vinto qualche cosa di pesante, e forse non si è mai confrontata con la tensione. Bisogna pure iniziare, di no? Giocare il dentro fuori, capito? Ma tecnicamente siamo, sono capaci di tutto, nel senso che hanno fatto vedere cose bellissime, che c'era Leo alla World Cup, sono partite queste Olimpiadi benissimo. Non hanno ancora avuto quella continuità, e il fatto di non aver vinto non è legato al fatto che il mondo dello sport si divide tra vincenti e perdenti, è che qualche volta hanno fatto vedere in alcuni momenti che nei momenti decisivi non hanno avuto quella determinazione che è necessaria. Aggiungerei una piccola situazione legata a questa Olimpiade: non c'è per la prima volta un dominatore o un grande favorito. Nonostante il Brasile sia in casa, non è quel Brasile che ha vinto, la Russia oggi l'ha presa dall'Argentina, gli Stati Uniti di solito sono bravissimi, però qui sono partiti piuttosto male, quindi è una realtà dove non c'è un grande favorito, e l'Italia potrebbe, e ne ha la possibilità, infilarsi in questa mancanza di dominatore. Che è un po' inusuale, che non ci sia un dominatore nel torneo di pallavolo. Non so se vale lo stesso anche per le donne, quindi possiamo sperare che ci sia una redenzione. Ho l'impressione che abbiamo visto un po' tutto sfilacciato. Abbiamo visto. Ad esempio, ci stavamo interrogando, Andrea, su cosa possa pesare su una spedizione dove poi gli equilibri sono anche leggeri alle volte. Quello che è capitato prima di questa Olimpiade alla nazionale femminile, con Bonitta che tiene fuori la Diouf con un SMS, con le polemiche, perché poi magari gli equilibri si rompono per poco. Guardi, io credo che quella situazione, che ha avuto un enorme risalto mediatico, giustamente, perché l'SMS non è il modo migliore, però conoscendo Bonitta, l'ultimo problema che ha Bonitta è di dire in faccia a uno che ti lascia a casa, quindi non capisco quale sia la ragione di un SMS. Credo che la squadra sia in difficoltà per questioni tecniche. Ieri, per esempio, con la Cina ha fatto una fatica bestiale in ricezione, mancano delle giocatrici solide, e quindi questo rende molto complicato il percorso. Schuff più o meno non credo che abbia cambiato moltissimo. C'è questa giovanissima ragazza, la Egonu, che è l'ira di Dio in questo momento, ma anche lei può far di tutto, nel bene e nel male. Se avessero giocato un po' meglio di quanto hanno fatto, forse potevano fare un po' di più, ma l'accesso ai quarti rimane complicatissimo, perché quello è un po' il livello della nostra nazionale, che non può puntare ad altissimi livelli, dove Stati Uniti, Brasile e Cina, adesso anche l'Olanda, sono di maggior livello. Andrea, ieri abbiamo fatto un gran discutere anche con gli ascoltatori su De Coubertin, quella frase tradotta male, va bene, lo sappiamo, però la frase che attribuiamo a De Coubertin è: l'importante non è vincere ma partecipare. Poi so che non è così, perché disse l'importante è ben lottare e puntare a vincere, qualcosa del genere. Allora, dove voglio arrivare? Per chi punta una medaglia, l'importante è vincere. Guarda, basta aggiungere una piccola distinzione: quando sei in campo, qualunque esso sia, conta solo vincere. Quando esci da quel campo, che sia un campo, un poligono di tiro, ricordarsi che lo sport non è tutto. Questa è la distinzione da fare. Quando sei in campo, è ovvio che l'obiettivo è far del tuo meglio. Se sei bravo proprio a vincere, tra il primo e il secondo c'è una grande differenza. Il rischio è trasformare questo mondo in bianco e nero e portarlo fuori dalla competizione sportiva. Te la sei scritta, Turrini? Leo, prego, scusa. Te la sei scritta questa frase di Zorzi? No, guarda, Zorzi è uno che quando eravamo giovani io amavo sempre incontrare, perché lui ha inventato il decoder di Sky molto prima che venisse realizzato davvero, nel senso che lui partiva, ti faceva delle metafore, delle disquisizioni straordinarie, io restavo lì pensoso perché ero già molto anziano, no? E dicevo, ma devo decodificare il pensiero di Zorro, hai capito? Perché Zorro è stato veramente un intellettuale prestato alla schiacciata, è quasi un ossimoro, se posso consentirmi, perché si dice sempre, gli appassionati di pallavolo lo sanno, no? Che l'opposto, che era il ruolo di Andrea, deve essere ignorante, no? Ignorante tra virgolette nel senso tecnico, cioè è quello che deve picchiare più forte la palla, no? È quello che deve decidere con la fisicità le partite, e certamente Andrea questo lo faceva meravigliosamente sul campo, però poi fuori era un raffinato intellettuale, uno che si partiva con questi arzigogoli fantastici. E tu pensavi, un giorno inventeranno il decoder per riuscire ad arrivare a comprendere la profondità del pensiero. Ce di l'hanno Zorro. Fatta. Il guaio è che io, veramente, lo so. Poi non è un caso, Zorro è finito a lavorare a Sky perché ha inventato lui il decoder. Il guaio è che Zorro era gratis, bastava leggere sulle sue interviste. Il decoder bisogna paga. Pagarlo. Grazie comunque, Zorro, per essere gratis. No, in realtà non mi sembrava, Leo, così complessa la mia frase di dividere il mondo dello sport e quella fuori. Non necessitava di quali. Ma devi capire che è al beach volley lui adesso, quindi è distratto, è distratto. Con le tue lucubrazioni devi capire che noi tutti, che siamo gente di campagna, ovviamente non i conduttori di tutti i convocati. E come no, io sono orgogliosamente di campagna. Poi ti vedi perché hai questa, come dire, capacità affabulatoria, no? Io ricordo che una volta feci un'intervista a Zorro dove praticamente dovevamo parlare del confronto contro gli olandesi, eccetera, e lui finì con un'illustrazione della cordigliera andina, una cosa che io ancora mi ricordo, cioè voglio dire, ma non Zorro è una figura leggendaria. No, non è vero, no, è vero, ci sono anch'io. Leo Turrini dice sempre la verità, sia chiaro. Anch'io ad Andrea voglio un bene dell'anima, e anche questo lo dichiaro pubblicamente, oltre al fatto che mi manca. Andrea, grazie. Pensate, dimmi. Che ho letto poco tempo fa una rivista vecchissima, veramente dell'84, quando a 19 anni mi fecero una domanda e io risposi a 19 anni, non è facile dare una risposta univoca a una domanda così complessa. Punto. Come vedete non mi sono inventato nulla. No, lo so perfettamente. Lo so perfettamente. È sempre stato così, Zorzi, devo dire, da questo punto di vista un passo avanti rispetto a tanti personaggi dello sport. Adesso, al di là di tutte le battute, mi fa piacere aver avuto occasione di sentirlo, perché è stato uno di quei giovani, parliamo seconda metà degli anni Ottanta, che hanno fatto capire agli italiani che nella pallavolo potevamo essere protagonisti al massimo livello dopo decenni, insomma, di anonimato sulla scena internazionale. Io credo che lui, Bernardi, Gianni, Toffoli, tutto quel gruppo storico lì abbiano veramente fatto qualche cosa che rimane. Sono una delle classiche squadre epocali, perché dicevamo di Nibali l'altro giorno, il destino a volte dice no, quello no, perché anche se gli dei dell'Olimpo sono capricciosissimi, più di Leo Turrini. Leo, grazie, ci sentiamo ovviamente domani. Mentre sì, cerco Panis domani, e non dimenticate Dong Dong, appunto, il campione olimpico di tappeti elastici, siamo, no? Ancora aspettando, no. E sta per entrare in scena, anche perché c'è questa voce secondo la quale sarebbe stato consultato, sapete che Toire è qui, Toire è qui, avrebbe consultato Dong Dong sull'assunzione di De Boer. De Boer, oggi abbiamo scoperto che si dice De Boer. Capite, insomma, il mondo è piccolo, siamo tutti qui. Tra l'altro, Leo, siamo tutti qua. Ti salutiamo con questo sms di un amico che non si è firmato e che ha detto: per ora siamo quarti nel medagliere, ma anche la tua bene amata Inter era prima e tu già festeggiavi, poi hai visto che brutta fine ha fatto. Noi vi salutiamo. Non scatenarmelo. Andrea, ti aspetto qua un giorno se vuoi, o se puoi. Dai, ci rivediamo a settembre, magari organizziamo, vediamo di vedersi più spesso. Anche a me manca molto Radio 24. Ti aspettiamo qui, Andrea Zorzi. Grazie. Tanto ci sentiamo nel corso delle Olimpiadi. Allora andiamo con il traffico. 800240024, numero verde per intervenire. C'è già Michele Fortunato. Fantossi, adesso guardo un attimo nello schedario dove c'è della bella pasturona qua. Allora mi scusi, quali sono le cimansioni? Quali sono allora? Capo ufficio Pacchi. Ah sì, non va bene. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Tutti convocati alle Olimpiadi, abbiamo anche dei risultati da sì, dare. Sì, 200 farfalla, le batterie, ce l'ha fatta Alessia Poglieri che è in semifinale 2.8.95 con il quindicesimo tempo, è stata sfortunatissima Stefania Pirozzi 2.9.40, diciassettesimo tempo fuori dalle semifinali per 11 centesimi. Riccardo da Roma scrive: perché gli atleti uomini si possono criticare sulla forma fisica mentre le atlete se sono fuori forma no? Ma ne parliamo, dopo le 19 ne parliamo con un grande direttore. Torniamo su questo uno di titolo, quelli che fa discutere. Il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico che è costato il posto a Giuseppe Tassi, direttore di questa, che tra l'altro oggi abbiamo anche cercato e che magari avremo il nostro ospite nei prossimi giorni. Michele, buongiorno. Buonasera. Grazie di avermi convocato. Io volevo intervenire sul caso Schwarz. Non so se avete visto il docufilm fatto da Repubblica. Sì, certo, ne abbiamo anche parlato con Donati l'altro giorno. Guardi, mi scusi, ma non l'avevo sentito, non avevo sentito la trasmissione. Quindi il caso è comunque problematico. Mi rendo conto, prima lei faceva riferimento a una persona, non ho sentito il nome, che lo avrebbe condannato senza appello. Se ho capito bene, era arrivata a casa, ho sentito questa cosa. Ma il caso è molto problematico, cioè magari l'analisi sicuramente, e quella provetta è sua, infatti non lo hanno messo in dubbio gli avvocati, sembrerebbe, però tutta la vicenda è oscura, quindi in una vicenda di questo genere io mi sarei aspettato dal CONI una presa di posizione. Oh, ora, bravo, bravo Michele. Ecco, volevo solo dire questo, o in un senso o nell'altro. No, sì. Ma anche semplicemente di appoggio perché ci sia un giusto processo. Non, che il CONI non dica criticamente è un complotto, io lo posso anche capire, perché non è una posizione comodissima per un'istituzione da prendere, ci vogliono le prove, ci vuole. Ma che si potesse evitare a Schwarzer la farsa di andare a Rio, e oggi ce l'ha raccontato Leo Turrini, di allenarsi aspettando il 12, tra l'altro il 12 c'è la 50 km, in teoria Alex Schwarzer ha il pass per la 50 km, e se anche dovessero riammetterlo, se veramente il verdetto è il 12, quella è una gara persa, chi lo sa. Fortunato da Belluno, Fortunato. Buonasera. Grazie della convocazione. Allora, io sono impressionato dal fatto che l'organizzazione, o comunque insomma lì del Rio 2016, abbia permesso a due egiziane di mettersi in quelle condizioni e gareggiare con le altre. Mi sorprende che anche le altre non siano rifiutate nel farlo. Ma perché avrebbero dovuto farlo, Fortunato? Ma scusate, ma parliamo tanto del fatto che c'è lo spirito olimpionico, o comunque fatto di bei pensieri, di integrazione, o comunque di mettere sul tavolo non tanto le nostre differenze, ma quanto le nostre analogie. Invece permettiamo, per la prima volta mi pare, Non è vero Fortunato, non, e poi perdonami, lo sport e le Olimpiadi in particolare sono un terreno neutro, cioè in che senso integrazione? Sono anche rispetto, siccome, è anche rispetto delle tradizioni, delle diversità. È proprio perché è un terreno neutro che non devono permettere queste differenze così ridicole, perché sono solo, le dico perché tra l'altro io ho un passato anche da, mia madre è musulmana. Per cui una cosa del genere, francamente, l'ho trovata aberrante, è aberrante. Ma io trovo invece fortunato che, posto il rispetto di quello che è la tutela della salute, e quindi che qualunque modo di vestirsi non vada né contro il decoro né magari esponga gli atleti e le atlete a dei rischi per la propria salute, per il caldo, per il sole, eccetera. Cioè, salvaguardata questa cosa qui, c'è anche il rispetto delle differenze, e quindi se le atlete musulmane di alcuni paesi gareggiano così come abbiamo visto nelle fotografie e nelle immagini, fotografie che sono state pubblicate anche sulle prime pagine di tutti i giornali, ha un valore simbolico, ma io non ci trovo niente di scandalizzante. Io nemmeno, Fortunato, ma poi abbiamo opinioni diverse, la sua diritto di cittadinanza è esattamente come la nostra. A me non ha indignato assolutamente, non ha dato fastidio assolutamente. Ripeto, per me le Olimpiadi sono anche il rispetto delle tradizioni e delle insomma, delle usanze, delle diversità. Però vedo che il tema è aperto, per cui se volete 800 24 0024 è un tema che può intrigare. Parliamo di un'altra cosa invece, proviamo a capire cosa dicono le stelle su Federica Pellegrini. Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo. Non è Rio de Janeiro ma c'è un clima fantastico. Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. Sono diversi messaggi su Federica Pellegrini in acqua per la finale 200 che stanotte alle 3:19 ora italiana. Fisicamente la Pellegrini non mi era mai piaciuta, ma il modo in cui si è agghindata per la cerimonia d'apertura mi ha inaspettatamente arrappato, scrive un ascoltatore. Se la Pellegrini non vince una medaglia, voi giornalisti siete talmente incredibili che direte che delusione la Pellegrini, sì, certo, scrive Gianni. E poi molti altri scrivono: mi alzo alle 3 di notte per ammirare i grandi del nuoto mondiale. La Pellegrini è un'espressione marginale del tutto, come il 49-4 di Magnini, insomma tifo per il nuoto non per la bandiera. Appassionato di nuoto, ci sta anche questa. Cosa diranno le stelle su Federica, Giovanni? Lo chiediamo a un astrologo, uno dei più noti, uno che ha praticato sport, sì, che fa l'oroscopo per il Guerin Sportivo e quindi è perfetto, sì, che ha giocato nelle giovanili del Milan, sì, sì, sì. E allora adesso indovinate chi è, domandone, no, ve lo diciamo noi. Marco Pesatori, ciao Marco. Ciao, buonasera. No, non sei stato venduto anche tu ai cinesi? No. No, io sono cinese, quindi ho sangue cinese, ho un karma cinese, quindi mi va benissimo, non ho questo problema. Meglio i cinesi che, non so, mio cugino di Cinisello Balsamo, quindi non siamo così adesso, in epoca global. Ben vengano i cinesi per tirar su queste derelitte anche milanesi. Perché tuo cugino non ha 740 milioni di euro. Facciamo le stelle, dai. Magari ce li ha, come fai a saperlo te, Capuano? magari ce li ha, però a me l'idea di sentire San Siro d'inverno, io non sono un romantico, ti confesso, però di sentire invece il profumo dei mandarini d'inverno a San Siro, profumo della, come si chiama? Involtino primavera. Bravo, dell'involtino primavera, a me un po' disgusta, però non per essere romantico. Senti Marco. Sì. Federica, sì. Pellegrini. Dacci buone notizie. Allora, la Federica Pellegrini è del segno del leone, con Marte nell'Ariete. Una leonessa è nata per essere la numero uno. Come i leoni, no? Pensate solo al più grande dei leoni storici del calcio, Gianni Rivera. Gianni Rivera entrava in campo e illuminava. Il leone è illuminazione. E la Pellegrini già ha illuminato mezzo mondo portando la bandiera. Adesso è chiaro che tutti noi ci aspettiamo una medaglia di quelle di qualità. Io volerei molto basso, nel senso che la Pellegrini già ci ha dato tantissimo in questi anni nella sua carriera, quindi vediamo fin dove arriva questa sera. Ecco, l'oro sinceramente adesso non è l'astrologo, che in Italia dire astrologo è una parolaccia come dire zoccola, quindi state attenti, ma l'astrologo, insomma, non è l'astrologo che parla, ma arrivare all'oro mi sembra un po' tanto, anche perché c'è un'antipatica luna in Scorpione proprio attorno alle 4, alle 5 del mattino, subito dopo, che è una piccola onda negativa. Ma la Pellegrini, questo non vuol dire, se non vince l'oro può vincere l'argento, ecco, anche, sì, il bronzo, che mi sembra, io mi accontenterei anche del bronzo. Anch'io, mi sembrano le medaglie plausibili per le umane, fatta salva la Ledecky, che era più forte di tutte. Anche perché la Ledecky è di marzo, io non so che segno sia, perché non me ne intendo. Marzo può essere pesci, pesci. Come me è perfetta. Senti, anch'io sono pesci. Quando si parla d'acqua, quando si parla di acqua, i pesci sono sempre fortissimi. Ma comunque l'americana, chiaramente pesci o qualunque altro segno, sembra più forte. Senti, posso usare gli ultimi 30 secondi che ho a disposizione, usare la radio per motivi personali? Me lo consentite? Certo. Io sono nato il 29 febbraio del 68. Perché mi sento certe volte così sfigato? Mi sento Paperino. Ma no, perché il pesce ha un po' questa caratteristica, come dire, del crocifisso, proprio per proprio perché ce l'ha incarnato, così tutti piangono, lui piange e intanto li frega tutti. È il famoso Chiagne e Chiagne Fotte, è il sacrificio, è questo Sturm und Drang, tutti gli scrittori dei pesci erano questo cuore intenso, pensate a Pasolini, a Kerouac, a Houellebecq, li guardi in faccia e dici adesso piange, e invece no, adesso vince, perché con quella faccia di tristezza, con quell'espressione così da spleen poetico, poi va a vincere l'oro. Mi hai convinto, grazie Marco, mi hai sollevato la giornata. Se la Pellegrini prende la medaglia ti richiamiamo ancora prima di qualche finale. Ti richiamiamo su. Il calcio sono forte. Grazie Marco Pesatori. Grazie, grandissimo. Guarda, ti leggo un messaggio, poi c'è il GR. Quello che offende le cicciottelle venga a dirmelo. Sono 1,88 per 100 kg, ma faccio box e pesistica. Fabrizio. Ne parliamo dopo il GR allora. Tutti convocati. Andiamo a vincere ancora. Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, ma c'è solo un piccolo problema, non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma, ma di che parla? Ah sì, è vero, c'hai ragione Filippo, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Anna, lo senti questo clima estivo? Il sole, il mare, la montagna, le città d'arte. Ma allora torna Globetrotter 24? Sì, Valeria, torniamo. E in una versione tutta rinnovata, con ospiti fissi e destinazioni interessanti e, speriamo, poco scontate. Non vuoi anticiparmi nient'altro? Posso solo dirti che i nostri compagni di viaggio sono Salvatore Carrubba e Davide Paolini. Allora dimmi almeno a che ora è l'appuntamento. Ogni sabato e ogni domenica alle 10.30, ovviamente su Radio 24. Tutti convocati alle Olimpiadi. Tutti, ma proprio tutti convocati alle Olimpiadi, anche al telefono 800 24 00 24. Tra poco parliamo di quel titolo sulle cicciottelle che è costato il posto al direttore di QS Giuseppe Tassi. Abbiamo degli aggiornamenti da darvi. Sì, vero? Appena finite le batterie dei 200 rana maschili, c'era il nostro Luca Pizzini, 2:11:26, e si è qualificato alle semifinali per il rotto della cuffia, è proprio il caso di dirlo, sedicesimo tempo per 2 centesimi. Quindi mancano ancora le batterie della staffetta 4x2 stile libero maschile. Il riassunto di questo pomeriggio è l'eliminazione di Filippo Magnini, che non è entrato in semifinale lontanissimo, oltre il 30° tempo. C'è Luca Dotto invece con il 10° tempo, 100 stile libero. Poi nei 200 farfalla femminili, dentro la Polieri con il 15° tempo, fuori sfortunatissima Stefania Pirozzi, fuori per 11 centesimi, 17° tempo. E poi lo abbiamo detto, Luca Pizzini nei 200 rana maschili, 2:11:26, 16° tempo, semifinale per 2 centesimi. Manca la staffetta 4x200 stile libero. Allora parliamo con uno dei direttori storici della stampa italiana, Vittorio Feltri. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Buonasera direttore, ovviamente parliamo di quel titolo, il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico, molti si sono offesi, i social network sono impazziti, il direttore di QS Giuseppe Tassi è saltato, non è elegante, ma ne abbiamo letti di peggio magari in altri ambiti. Sì, d'accordo, non è elegante ma non è neanche offensivo e neppure particolarmente volgare, è un'espressione che usiamo nel linguaggio colloquiale familiare, quindi non vedo perché si debba montare una polemica su un'espressione così innocente, francamente. Beh, ma molti si sono offesi, c'è chi, i nostri ascoltatori sono spesso cattivi, cioè chi scrive gli sms, le palle di lardo non dovrebbero essere ammesse alle Olimpiadi, ma non dovrebbero essere ammessi nemmeno questi messaggi. Sì, vabbè, ma palle di lardo, quello è sicuramente offensivo, perché ha una connotazione veramente molto negativa, ma Ciccio Tella è quasi affettuoso adesso, sinceramente. Non capisco perché si debba fare la guerra alle parole più che ai concetti che si esprimono. Io sinceramente sono contro il politicamente corretto. Si usa una lingua che è il nostro patrimonio e la si usa come si crede opportuno, senza intenzioni offensive. Quindi sinceramente io sono anche stupito che questo direttore sia stato allontanato per una scemenza del genere. Non so se farà causa, sicuramente la vincerà, perché è stato allontanato senza giusta causa. Noi oggi l'abbiamo chiamato, nei prossimi giorni lo sentiremo. C'è un collega di Repubblica che ha fatto due chiacchiere con lui. C'è questo passaggio che viene riportato oggi sul sito di Repubblica, che però secondo me può aprire una discussione, perché a un certo punto gli chiedono se c'è un po' di sessismo. Cioè lui ricorda, ma anche Galeazzo 4 anni fa gli diedero del cicciottello. Galeazzo è il nostro tiratore, sempre con l'arco. E lui dice: anche ecco, a Galeazzi, ti ricordi il collega? Lo chiamavano Elefante, gli hanno detto tutti i colori, perché era mastodontico. Ma lui ricorda anche che noi, voglio dire, è giorni che parliamo e scriviamo, perché ci sono i commenti di Guain, cicciottello, sovrappeso, eccetera. E dice: ecco, però lasciamo stare questo tema del sessismo. Sì. Giuliano Ferrara, da 100 anni a questa parte lo chiamano l'elefante. Lui stesso, anziché filmare Giuliano Ferrara, spesso mette il simbolo dell'elefante. Dell'elefantino. Non lo so, non ci vedo niente. Che cacchio c'entra il sessismo in questa cosa? Io per esempio sono sempre stato magrissimo, adesso lo sono un po' meno, ma mi chiamavano scheletro, mi chiamavano... Il tema è, non è che la sensibilità magari è un po' più accentuata perché erano cicciottelle, cioè donne, e non cicciottelli maschi, come, ripeto, allora, cosa c'è qualche esempio. Sessismo, perché il sessismo è bilaterale, diciamo. Non può essere unilaterale. Sessismo non c'entra niente, è che è di moda questa sciocchezza del sessismo, per cui qualsiasi cosa tu dica. Tra l'altro, se tu un tempo, se uno avesse detto bella figa a una donna, si sarebbe offesa, avrebbe anche ammollato uno schiaffone. Adesso figa è diventata sinonimo di bella, no? Tu dici ma pensa com'è figa, oppure dici è una figata, mentre invece quando si dice cazzo c'è una connotazione negativa, no? Hai fatto una cazzata, sei un cazzone. Cioè, il sessismo è al contrario, secondo me, non è al femminile ma al maschile. Io voglio sentire anche qualche voce di ascoltatore, come Luciano da Savona, mentre Vittorio Feltri è con noi. Luciano, buonasera. Buonasera a tutti. Dica. Mi dispiace che ho sentito soltanto le ultime parole del direttore Feltri, perché sicuramente immagino cosa possa aver detto. Io sono assolutamente sulla sua linea, lo dico così alla cieca, perché non se ne può più di questo politicamente corretto. Facciamola finita, e ci rompe le palle su qualsiasi argomento. Non si può dire negro, guai al mondo, non si può dire cieco, non si può dire sordo. Bisogna usare tutte le definizioni cieco e sordo, assurde. Diciamo, cieco e sordo si possono dire, negro magari negro un po' meno. Naturalmente. Negro magari un po' meno, credo che anche Vittorio Feltri sarà d'accordo, non lo so. Se è d'accordo. Sono d'accordissimo, perché bisogna dire non vedente. cieco non si può più dire. Allora mi domando come si può definire uno stitico. Se il cieco è non vedente, non lo so, ma siamo impazziti. Ma tu l'avresti fatto quel titolo o no? Quello sulle cicciottelle? Ma sai, i titoli ti vengono o non ti vengono, bisogna trovarsi nella situazione. Diciamo che io considero cicciottelle un termine tutt'altro che offensivo, quasi affettuoso, quasi un vezzeggiativo. Quindi quando per esempio un bambino dice ma pensa com'è bello cicciottello, nessuno si offende. Poi se lo dice a una ragazza, guarda, si incazza. Ma che stiamo, però, ma siamo impazziti. È un po' come l'età, però, direttore. Se chiedi a me quanti anni ho, non mi interessa. Se lo chiedi a una collega, magari. Vabbè, a me ne frega niente. Io ho 73 anni, lo dico, sono vecchio, è meglio vecchio che morto. Cretino. Direttore, c'è un altro tema che stava interessando i nostri ascoltatori. Prima c'è uno che ha chiamato e ha detto: non mi è piaciuto il fatto che l'egiziano nel beach volley abbiano giocato con il costume che la loro tradizione impone. Io ho altri messaggi tipo: sogno le avversarie delle egiziane con le tette al vento, cose di questo tipo, oppure il pudore è una questione culturale. Ho passato diverse serate con donne marocchine che scattavano a coprirsi le braccia appena arrivava un uomo, e con donne indigene neozelandesi che stavano a torso nudo a parlare con gli uomini senza il minimo problema. Costringere a coprirsi o a scoprirsi è comunque una violenza. Annalisa, cosa ne pensa? Ma guarda, io ho visto la fotografia in questione dell'egiziana, e poi ho visto anche i giornali egiziani che coprono la ragazza, cos'è, la brasiliana, credo, e non la mostrano perché sono così bigotti, così stupidi, così sono dei coatti intellettualmente. Quindi non capisco perché se la devono prendere per una teta, quattro capelli ondulati. Io non li capisco. Dopodiché gli egiziani devono comportarsi come vogliono, però se dobbiamo dare un giudizio noi occidentali, non possiamo che ridere. Io non mi indigno, però insomma, mi sembra tutto paradossale e assurdo. No, però l'idea che alle Olimpiadi ci sia un abbigliamento giusto e uno sbagliato, secondo me, direttore, è surreale. Cioè, le Olimpiadi sono un terreno neutro. Cioè, se gli egiziani si vestono così, va bene così. La testa quadrata non è mica colpa. Sì, ma siccome prima un ascoltatore diceva: io sono scandalizzato, mi ha fatto schifo vedere quell'immagine, andrebbero integrati. In realtà, lo sport è un terreno neutro. Violentato anche per l'integrazione. Ognuno fa quello che vuole e non dobbiamo pretendere che tutti la pensino come noi. Il vero problema è che spesso chi diciamo appartiene a un certo mondo e pratica una certa religione è intollerante nei confronti di chi la pensa diversamente. Quindi non dobbiamo anche noi diventare intolleranti come loro, altrimenti ci mettiamo sul loro stesso medesimo piano. Sono d'accordo. Simone da Torino, poi salutiamo il direttore. Simone, buonasera. Buonasera, io volevo proporre uno spunto. Ma non è che queste difese di sessismo o presunti vittimismi vengono solo per categorie che in qualche modo rappresentano tutta la società, piuttosto che invece vengono permesse quando sono faziose? Faccio un esempio. Nel caso della politica, che forse in Italia è il campo più fazioso, era assolutamente ammesso che Berlusconi potesse essere chiamato nano o i commenti negativi sulle facce di Renzi, per essere bipartisan. Non è che ci si professa appunto rispettosi delle persone solamente quando queste categorie vanno a coprire tutta la nazione, sono dei simboli per tutta la nazione. Questa è una domanda interessante, grazie a lei. Ha ragione, io sono d'accordo con l'ascoltatore che è appena intervenuto, le cose stanno così. Non solo Berlusconi veniva definito in modo irridente anche con altri temi, per esempio il caimano, il nano l'ha già ricordato l'ascoltatore, il caimano, cioè delle cose incredibili. Però nessuno faceva una piega. Se poi dai della cicciottella a una ragazzotta che incarne, vabbè, allora c'è il sollevamento. Ci rendiamo conto che siamo ridicoli. Grazie, direttore. Grazie. È stato un piacere nostro. Grazie a Vittorio Feltri. Tanto appena finita la batteria della 4x200 stile libero, la prima delle due batterie, qui non si va in semifinale ma si va direttamente alla finale, quindi bisogna stare dentro i primi 8, e l'Italia ha chiuso terza, la sua batteria 7 minuti 9 secondi e 20 centesimi, ha fatto peggio degli Stati Uniti, ma era ampiamente prevedibile, ed è rimasta staccata di 4 centesimi dall'Olanda. Peccato, comunque adesso c'è la seconda batteria e l'Italia in questo momento è terza, ripeto, per qualificarsi alla finale di questa notte, finale che arriva dopo la divina Federica Pellegrini, e ripeto divina perché qualcuno ci ha scritto dicendo basta, ci avete stufato, basta così poco per diventare divini. Dopo la divina Federica Pellegrini questa notte ci sarà anche la finale della 4x200 stile libero maschile, e ancora qualche minuto e poi sapremo se ci sarà dentro anche la nostra, la nostra staffetta. L'ha fatto pochissimo, medaglia, medaglieri alla mano e titoli alla mano. Chiede Giuseppe da Genova se le interessate si sono offese per il termine cicciottella, e si sono offese sì, perché poi tutto è partito da una lettera aperta del presidente della federazione del tiro con l'arco, che ha innescato tutto. Ci sono state le scuse del giornale, le scuse del direttore Tassi, ma poi insomma l'editore ha deciso di licenziarlo. C'è chi scrive: Gianni, è assurdo che succedano queste cose, allontanare un direttore per questa cosa, però questo è successo e noi vi abbiamo chiesto che cosa. Sì, certamente, insomma, che cosa è un titolo che non considero politicamente corretto, è un titolo che certamente non elegante, anzi totalmente inelegante, però stiamo dicendo se un titolo di questo tipo possa valere la rimozione del direttore di un giornale, e lo stiamo dicendo proprio sulla scorta anche di quanto ha sottolineato l'ascoltatore precedente. Ci sono ambiti in cui certe forme di politicamente scorretto vengono tollerate, e allora ci domandiamo se questo sia giusto oppure no. Non sono solo ambiti, ci sono anche nazioni, l'Inghilterra, il Regno Unito, che certamente non può avere un tasso di libertà di stampa e di tradizione culturale inferiore al nostro, tollera giochi di parole, titoli, prime pagine ben diversi. Qualche giorno fa il Sun ha messo in prima pagina Mourinho in un fotomontaggio in carcere. Mm-hmm. E allora, magari si può discutere anche di quello. Voi ve la vedete una prima pagina della Gazzetta dello Sport con Mourinho in carcere? Con Mourinho, con un allenatore, con un protagonista in carcere, ripeto, con un fotomontaggio. Magari non siamo abituati, magari da noi questa cosa non passerebbe, così come non è passata il titolo sulle cicciottelle di cui abbiamo parlato. Allora, ci fermiamo per la borsa, subito dopo un grande della nostra pallanuoto, e discutiamo un po' di una nazionale maschile, ha giocato anche quella femminile e ha vinto, ricordiamolo, una nazionale maschile che manda ottime sensazioni, appena dopo la borsa. Viaggio l'Olimpiade, belle l'Olimpiade. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati alle Olimpiadi. Sapevamo che non ci aspettava una partita da 20-0, lo sapevamo, innanzitutto perché Brasile è cresciuto molto e poi perché è un esordio con loro in casa, quindi sapevamo che è una partita che avremmo ingranato al terzo tempo. Quindi va bene, abbiamo rotto il ghiaccio, ora possiamo incominciare a giocare come sappiamo. Allora, questa era Teresa Frassinetto, centrobuova del 7 Rosa, che oggi ha battuto non 11-0 ma 9-3 il Brasile, padrone di casa, iniziando pure bene il torneo. Saluto e ringrazio un grande della nostra pallanuoto come Roberto Calcaterra. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Senti, arrivano dal sette bello, dopo le prime due esibizioni, splendide sensazioni. So che siamo soltanto all'inizio, c'è stata la battaglia con la Spagna, la gara piuttosto facile contro la Francia, che non... forse non era un test così probante, però mi sembra che le vibrazioni che escano da quella piscina siano positive. Beh, sicuramente, a punteggio pieno, due partite, le sensazioni non possono che essere positive. Poi la vittoria arrivata con la Spagna è una vittoria che dà grosso morale, perché comunque la squadra era ridotta all'unicino, non c'erano più cambi, un infortunio importante come quello dei Cardi, Bodegas fuori per tre falli, l'espulsione di Nora, quindi la situazione era drammatica, il cambio di portiere, rigore parato, quindi ha dato una scossa fortissima. Campagna ha fatto un'ottima mossa tattica e ha poi il cuore dei ragazzi ha ripreso la partita, quindi quelle sono partite che danno una svolta decisiva a tutta l'Olimpiade. Sì, sono momenti che fanno crescere. Sì, questo è stato un momento proprio all'inizio, è un momento che ha dato il via. Adesso domani c'è la prova del 9 col Montenegro, che è una formazione di tutto rispetto, che comunque ha perso questa notte con la Croazia di 1, quindi è un girone molto molto equilibrato, come lo è anche l'altro, quindi non ci sono la Serbia favorita su tutte, ma che sta stentando e è a due punti, quindi anche la Serbia rischia addirittura di uscire dalle prime quattro dall'altra parte, non succederà, però è una situazione abbastanza equilibrata. Sì, perché noi avevamo sentito Sandro Campagna qualche giorno prima dell'Olimpiade, lui diceva questo è un gruppo strano perché manca la terra di mezzo, manca la generazione di mezzo, ho quegli esperti, ho dei ragazzi giovanissimi come se fosse l'apertura di un ciclo, siamo forti, però bisognerà trovare la miscela giusta, bisogna, e partite come quella con la Spagna, tra l'altro, dove in fondo sono soprattutto i giovani, insomma, che l'hanno portata a casa, hanno davvero la funzione di accelerare il processo di crescita di un gruppo come questo, no Roberto? Ma sì, questo è un gruppo che viene da vittorie mondiali e europee a livello giovanile, quindi Di Fulvio, Fondelli, sono tutti giocatori che a livello anche veloce, a livello giovanile hanno vinto già tanto, quindi è un gruppo consolidato. E hanno dalla loro l'incoscienza di una prima Olimpiade, c'è l'inesperienza, ma c'è anche la beata incoscienza che a volte dà quella leggerezza in più che ti fa fare cose che magari non fai quando sei sotto pressione, quando sei anche più maturo. Quindi questa è una squadra strana, come avete detto Campagna, come state dicendo voi, una squadra che però è proiettata poi a Tokyo 2020 in maniera importantissima, quindi poi Campagna insieme a Rudic per me è uno dei tecnici migliori che ho avuto e quindi sicuramente sa gestire il gruppo, c'è un ottimo staff, c'è una psicologa dietro che fa un lavoro immenso, non si vede ma è una psicologa eccezionale che ho avuto anch'io quando ero nazionale, quindi è una squadra che può far bene, come poi può anche uscire nei quarti di finale, perché comunque l'Olimpiade è quella. Certo, l'esperienza, vi dico che ho fatto tre Olimpiadi, tutte e tre le Olimpiadi sono arrivato primo o secondo nel girone, poi vabbè, a parte una che siamo andati a medaglia, l'altra abbiamo incontrato l'Ungheria che poi ha vinto l'Olimpiade, l'abbiamo incontrata come terza, ha fatto una scalata pazzesca e quando si è sfortunato nel quarto, il quarto è la partita cruciale, quindi puoi fare un girone stellare ma poi se perdi quella è come se non avessi fatto nulla, quindi Campagna per esperienza sa che deve arrivare integro a quella partita lì e secondo me sta gestendo anche, prima cosa devono passare il turno perché la cosa più importante è quella, arrivare tra le prime quattro, dopodiché dall'altra parte si può incrociare chiunque, quindi il quarto di finale è la partita poi fondamentale. È un girone bello magari pesante, si faranno anche conti all'ultima partita. Sì, anche perché è un girone bello pesante fisicamente, io non so se sia un vantaggio o uno svantaggio, visto che poi ci si gioca tutto nella seconda fase, è uno svantaggio. È uno svantaggio perché fisicamente poi ci sono infortuni, ci sono fatiche, anche dall'altra parte però sta verificando un girone di alto livello, c'è la Grecia che nessuno dà come squadra favorita, però la Grecia è un gruppo bellissimo, quindi sto vedendo le partite, stanno giocando bene, la Serbia è la favorita assoluta, però in questo momento è sotto proprio ogni aspettativa, sta giocando molto male, ha recuperato due partite che erano perse, quindi ha dei giocatori che sono eccezionali, che fanno la differenza, se esce la Serbia non ce n'è per nessuno. Mentre io ti leggo un sms di Armando, grande Roberto, saluti da Pescara ai due fratelli. Ah, grazie. Non so se sia utile. È una città che mi rimane nel cuore perché lì ho fatto insieme a mio fratello anni splendidi della mia carriera e tuttora ho casa lì, quindi ho la mia ex moglie, la mia famiglia è di Pescara, quindi... Quindi hai affetti. Ho tanti affetti, sì. Se, Roberto, ma mi ha incuriosito quanto dicevi prima a proposito dello psicologo. In un torneo spietato come l'Olimpiade, quanto può servire per allentare la pressione? Sto pensando anche, ne abbiamo parlato anche ieri, no? Alla Cagnotto, sto pensando ai tiratori, a tutti quelli che fanno uno sforzo anche mentale pazzesco, quanto può servire nel... Ma guarda, io dico per esperienza la psicologa serve nella preparazione per arrivare all'evento e tutto quello che si costruisce intorno prima di arrivare all'evento, poi è il saper gestire la tensione, saper gestire lo stress, una volta che si è lì la psicologa analizza un po' la situazione, ma soprattutto serve nel rapporto allenatore-giocatore, quella che vede per prima la cosa che non va è quella che cerca di mettere subito un tappo dove ci può essere un buco, per esempio un giocatore che magari raggiunge una semifinale già è arrivato al risultato e quindi non è motivato per arrivare poi in finale, si accontenta già di quel risultato lì perché magari è giovane, quindi interviene in questi casi. e la costruzione proprio di tutto quello che c'è prima per arrivare all'Olimpiade, lì la psicologa fa un lavoro enorme. Noi non abbiamo bisogno di una persona che ci parli prima delle partite, che ci dica come tirare, concentrazione, precisione. Lì c'è bisogno di arrivare con un gruppo che sia una cosa unica, e in questo momento il Sette Bello lo è. Fatto sta che tutti sono intorno a dei cardi che si è rotto il naso, hanno fatto questa maschera in tempo record. Io non ci avrei scommesso un euro, perché comunque prima giocavo con la maschera, quando ho rotto il naso io era devastante, faceva più male di prima. Invece adesso hanno tecnologie diverse, quindi ho visto questa maschera che era fatta benissimo e Cardi non ha avuto nessun problema. Quindi il meglio così, abbiamo recuperato un giocatore che è determinante. Certo, che rischiavamo di perdere. Rischiavamo di perdere per una settimana, sì, quindi per la prima fase. Sì, che una settimana nelle Olimpiadi non è tutto, ma è tanto. È tanto. Signore, un naso rotto, lo dico per esperienza, è tanta roba. Abbiamo notizie. È veramente la cosa... una delle cose più brutte che può succedere, il naso rotto al minimo tocco uno vede le stelle. Quindi il centrobuoto è un ruolo di lotta fisica anche subacquea, e se voi guardate dei contrasti quando ci sono le azioni in cui il centrobuoto si perde, che è sott'acqua, puntualmente il naso del centrobuoto è attaccato all'avversario, cioè si sta strofinando col viso, si sta spingendo, quindi sono tutte leve dove il naso non sembra mai interessato. Sì, quindi per esperienza vi dico che è doloroso, molto doloroso. Come no? Ti chiedo un'ultima cosa, Roberto. Tu sei mai arrivato ad odiare il tuo sport, come ha dichiarato ieri Campriani dopo la terza medaglia in due Olimpiadi, due delle quali d'oro? No, io adoro il mio sport, lo adoro tuttora, perché sto lavorando con i ragazzi e sto facendo tantissime iniziative soprattutto per i ragazzi. Oggi, sentite, questo baccano sono le finali under 15 a vedermi i campionati italiani, e io adoro questo sport e ho passione ancora nonostante poi non giochi più da 3 anni, e quindi no, io amo il mio sport, l'ho sempre amato, quindi avrei giocato fino a 50 anni, 60 anni alla Pegliello, però anche la pallanuoto ha dei limiti fisici, io sono arrivato comunque a 41 anni con la finale scudetto, e quindi sono un fortunato di questo sport. Adesso sto facendo tante altre cose. Ti sei fatto un mazzo così, perché arrivare a quell'età ed essere, e giocare ancora al top vuol dire farsi un mazzo così, e non ce lo nascondiamo. Sì, sì, sì. Questo, le preparazioni sono impressionanti per un'Olimpiade, quindi chi l'ha fatto se ne rende conto, chi lo vede da fuori non sa che lavoro c'è dietro. Immagino. Grazie Roberto, a presto. Grazie a voi. Ciao Roberto Cacaterra. Intanto grazie a te. Intanto sono finite le batterie, o meglio le semifinali della staffetta 4x200 stile libero maschile, e è andata malissimo. Nono tempo, quindi fuori dalla finale per la staffetta italiana, fuori dalla finale per 4 centesimi di secondo. Ci sono stati davanti gli olandesi, l'avevamo detto, erano nella nostra stessa batteria, ci avevano preceduto alle spalle degli Stati Uniti per 4 centesimi di secondo. Speravamo che comunque bastasse quel tempo 7:09:20 per stare dentro la finale questa notte, nella notte di Federica Pellegrini, e invece è andata male. Aspettiamo, intanto le staffette regalano qualche squalifica, qualcosa che aiuta poi o ad avvicinarsi al podio o comunque ad entrare nel turno successivo, però al momento questo è. Allora Giovanni, prima abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di farci qualche imitazione sulla scorta di quella che abbiamo sentito di Basile. La risentiamo? L'uomo che può fare a me tutte cose non delle paure e niente. L'uomo che può fare a me tutte cose non delle paure e niente. Quando scevo lei non dura, se stai per indana capa. E insieme a me c'erano americani che parlava perché teneva paura. La sera gli andorini mi mettevano un macete in mano e gridavano a Cile. O a Cile ma noi a te. A ci abbiamo tagliato prima la capa. Poi mano e braccia. A ci fatta piezza. Vuoi capire? Ma capisci. Beh, abbiamo sentito un mix delle due voci, quella originale e quella del campione olimpico del judo. Chiedo a Salvatore Esposito, che è Jenny Savastano nella... protagonista della serie in attesa della terza serie attesissima di Gomorra, un voto. Ciao Salvatore. Che voto gli diamo? Che dire, è stato oro olimpico anche nelle imitazioni. Addirittura? Guarda che se non ti è piaciuta puoi dirlo, eh. Se non puoi dirlo, no, c'è problema. 4 dagli 4, non c'è problema. No, è stato molto molto simpatico, molto bravo, poi non essendo di origini campane ma non napoletano di crescita, però è stato molto molto bravo. Senti, stai seguendo le Olimpiadi? Poco per motivi lavorativi, perché ho finito di girare da poco questo film che si chiama Veleno, e quindi molto poco. Sono ho visto che nel medagliere l'Italia è abbastanza alta, quindi sono contento, perché i nostri colori devono essere sempre portati in alto. Sì. Senti, ma che effetto fa essere così seguiti dagli sportivi? E non lo dico a caso, poi magari dopo lo sentiamo. Un mese fa parlavamo degli europei, anche lì insomma si erano trovati al ritiro gli azzurri a guardare Gomorra. C'erano dei video ridicolissimi, esatto. Sì, ma no, perché avevo degli amici lì, da Immobile a Insigne a Sirigu, un po' tutti, ed erano tutti fan della serie, compreso il mister Conte e il suo staff. Prima della messa in onda degli ultimi due episodi della seconda stagione, hanno mandato a me e di conseguenza a tutto il cast di Gomorra e ai fan questo video. Quindi super felice, ma ci sono in tutto il mondo i fan di Gomorra, soprattutto tra gli sportivi poi. Sì, è molto seguito soprattutto dagli sportivi. E non so se dai... Alla Cagnotto avevo predetto l'argento, anche perché lei su sua stessa missione mi aveva detto l'oro impossibile con le cinesi. Io ho fatto un video anche con la Cagnotto e le ho augurato di prendere l'oro per gli umani, perché poi le cinesi sono extraterrestri. Sì, ma i cinesi vincono nei tuffi e comprano le squadre di calcio, Salvatore. Che vuoi fare? Ma c'è qualche altro sportivo che non sappiamo, che non è uscito il video, che ha cercato di imitarti, ha provato, ti ha mandato qualcosa? Ma guarda, non so quanto poi possa esserci riscontro con le Olimpiadi, però io sono stato praticamente alla cena di saluto dei ragazzi e c'erano tantissimi fan della serie, dai pugili alle ragazze del nuoto sincronizzato, ho fatto le foto con loro. Quanto di più distante si possa immaginare da Gomorra e dalle sue atmosfere, no? Ma guarda la bellezza del progetto Gomorra è che ha veramente riunito la società dall'alto verso il basso, va, diciamo così, in tutte le sue forme, e anche all'estero è lo stesso. Io sono stato ospite del Paris Saint-Germain negli spogliatoi e c'erano da Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti, giocatori francesi, Rabiot, e tutti erano super fan della serie. Ibra te lo saresti preso nel cast, Ibra ci stava, Nel cast o al Napoli? No, a Napoli, anche certamente. A Napoli. Anzi, dopo se vuoi ti devo dare una brutta notizia. Qua, dagliela no, subito. Io sono super informato. La sai già. E cosa ne pensi? No, la diamo anche a quelli a casa che magari non sono super informati. No, dopo Higuain il Napoli rischia di perdere anche Insigne, perché pare che non ci sia l'accordo sul rinnovo di contratto. Gli hanno offerto 2,5 milioni, lui vuole 3,5 milioni, e oggi il procuratore insomma ha chiamato una radio e ha detto: così noi da oggi prendiamo in considerazione altre offerte, ci sono, ci dispiace, con la morte nel cuore, però è probabile che Lorenzo se ne vada. Perdere Insigne sarebbe peggio di quanto non sia stato perdere Higuain. Non so se sei d'accordo, Salvatore. Sì, sono d'accordissimo. Anche perché Higuain a quelle cifre era un giocatore che andava venduto. Ora io sono super tifoso del Napoli e ti dico, ok, ovunque ma non alla Juve. È andato alla Juve, si è comportato per quello che poi si è dimostrato, non ha salutato l'allenatore, non ha salutato i ragazzi, non ha speso due parole serie per il pubblico, perché poi le ha dette in una conferenza stampa, ma... Quindi così come lo abbiamo osannato quando ha segnato i 36 gol grazie a mister Sarri, così ci diciamo che adesso non ci interessa più parlare di lui. Lorenzo, guarda, in fasi contrattuali di queste cose accadono. Lorenzo è legatissimo al Napoli e spero che non si faccia l'errore di perdere un ragazzo che, oltre ad essere attaccato alla maglia, è un talento e sarebbe davvero davvero un peccato. E lui più di Higuain può essere simbolo, eh? Lui più di Higuain può essere simbolo. Ma sì, ma poi abbiamo fortunatamente anche, vedi, un ragazzo come Marek Hamšík, che è ormai da tantissimi anni al Napoli, si è legato quasi a vita alla società, perché non dovrebbe farlo Lorenzo? È giusto poi dal lato di Lorenzo che lui abbia il giusto compenso, questo per sì, le sue doti e per quello che ha sempre dimostrato sul campo. Su questo sono totalmente d'accordo, si tratta di giocatori professionisti e quindi in alcuni casi, nel caso di Higuain, non dimentico le parole di Marino Bartoletti, arrivato a Napoli da mercenario, se n'è andato da mercenario, e su questo penso possiamo anche essere d'accordo. Ma guarda, io su questo non mi espongo più di tanto, nel senso che come si dice, in una trattativa bisogna essere sempre in tre a decidere. Sì. Forse De Laurentiis, una volta posta la clausola, aveva poca voce in capitolo. Certo, chiaro. Però Higuain ha detto in conferenza che la ragione principale per cui è andato via era il rapporto con De Laurentiis che non c'era. Ora non so cosa sia successo esattamente tra i due, però mi sembra chiaro che era un rapporto un po' consumato. E poi è quello che pensano tanti, tanti napoletani di De Laurentiis. Sì, ma sì. Guarda, alla fine io non capisco perché, cioè capisco che per carità poi dopo i presidenti legittimamente vengono contestati perché si chiede sempre di più. Però insomma, mi sembra che in generale... Guarda, tu stai parlando con un filo De Laurentiisiano, non so come dire. Sì. Nel senso, so benissimo che quello che ha fatto per il Napoli è qualcosa di importantissimo e che non ha mai fatto nessuno prima. Cioè nel senso che se noi ci ricordiamo che le cose importanti le abbiamo vinte, ma le abbiamo vinte grazie al giocatore più forte di tutti i tempi che è venuto a Napoli, allora credo che prima di De Laurentiis nessuno abbia fatto quello che ha fatto lui. Ora ci sta che noi da tifosi chiediamo sempre di più, ma criticarlo al tal punto di chiedergli di andare via, cioè veramente si tratta di essere folli, soprattutto perché poi arrivano sti cinesi, arrivano gli arabi, arriva chi deve arrivare più di quello, si troverà sempre poi un nemico, quindi è meglio che resti De Laurentiis, che continui a costruire un Napoli forte. Adesso con i soldi di Higuain, con i soldi della Champions arriveranno altri giocatori. Ma io ti dico, vado controcorrente, io darei una chance a Gabbiadini e valuterei questo Milik, che a me piace tantissimo, piuttosto spendere tanti soldi per Icardi. Sono d'accordo. Secondo me, così come Higuain, secondo me, è stato pagato almeno 15 milioni in più, spendere 60 milioni per Icardi mi sembra una follia, secondo me. Sono d'accordo. Grazie Salvatore, grazie davvero. Grazie a, voi, grazie a Salvatore. A Salvatore, ciao. Esposito. Ciao Jenny. Salvatore Esposito. Oh, finita la partita di beach volley. Jenny Savastano di Gomorra. Il nostro Leo Turini non ce l'ha detto, ma abbiamo vinto. Le nostre ragazze, la Menegatti, Giombini. Ma tu credi davvero che Leo Turini sia andato via a vedere? Ma sicuramente, era confuso. 21-10, 21-13 contro le egiziane. Questa notte alle 3, per cui siamo un po' combattuti, perché alle 3:19 c'è la Divina, ci saranno i maschietti, Lupo Nicolai contro la coppia tunisina. Beh, antipatico. Cosa si guarda? Beh, si guarda chiaramente da Pellegrini, ma prima Pellegrini, insomma, è una fucilata. Come tempo c'è spazio anche per guardare beach volley. Andrea, buonasera. Sì, salve. Salve. Dai, Andrea. Dica. Intervengo sulle ragazze egiziane. Mm? Perché tutte queste storie con la poligamia, con i costumi, così. Allora io penso ci debba essere il rispetto. Non si possono obbligare a mettersi in mutande lì davanti a tutti. Cioè uno si veste come vuole. D'accordo? Piuttosto, io sono assolutamente, non sono bigotto, ma non ho mai capito perché nell'atletica le donne devono andare via con la pancia fuori e gli uomini no. E non... Cioè perché stanno in due pezzi? Cioè, non... Guardi, è una questione di aerodinamica, è una questione di abbigliamento sportivo, non credo sia un vezzo, anche se le atlete insomma ci hanno abituati a così acconciature e smalti strani sulle unghie e cose, ma credo sia, credo si io credo che nell'atletica sia una scelta, è una questione tecnica. Diverso è stato ad esempio nel beach volley e nel volley, dove le donne sono state recentemente anche costrette ad accorciare i centimetri coperti per questioni di senso estetico, per aiutare le televisioni a vendere il prodotto. Ecco, io credo che quello sia al limite un tema di cui discutere, non come vanno vestite le egiziane alle Olimpiadi. D'accordo. C'è Stefano Arcobelli al volo dalla piscina, che così commentiamo questa mattinata dello sport. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Grazie. Allora, alla luce... È appena finita la sessione mattutina della quarta giornata delle gare di nuoto, con una piccola delusione, una bruttissima eliminazione, ma per l'inizio di 4 centesimi della 4x2 la staffetta, che è la stessa testa della 4% veloce, quindi diciamo, gli uomini e gli azzurri non hanno proprio fortuna in questa Olimpiade. E anche se stamattina hanno... fatto bene soprattutto 3 atleti, Luca Dotto nei 100 stile libero, che si è qualificato per la semifinale della gara regina, lui è campione europeo, poi Alessia Polieri nei 200 farfalla e Luca Picchini nei 200 rana, il resto si può dire non pervenuto, sì, compresa ma... purtroppo l'ultima gara di Filippo Magnini in carriera ai Giochi Olimpici a 34 anni, in grande stile, bicampione del mondo, potrebbe aver detto oggi addio alle gare. Stefano, posso farti una domanda un po' maliziosa, perché poi interpreto il sentimento, hanno scritto in tantissimi nell'ultima mezz'ora su questa eliminazione brutta di Filippo Magnini, brutta perché ha fatto un tempo altissimo, non è nemmeno andato vicino alle semifinali, il concetto è che in tanti scrivono è l'ultima gara, ne ha fatta una di troppo. Come la pensi? Nel senso che non, evidentemente non aveva più nulla da dire, insomma. Per la polemica. Tu lo conosci bene. Sì, ma no. Ma guarda, sai, è tutta la stagione che i velocisti vanno molto, molto, molto piano, come si suol dire. Quindi non sarebbe cambiato granché, perché lo stesso Orsi nella staffetta in trazione lanciata non ha fatto un grandissimo tempo, quindi non sarebbe cambiato molto. Purtroppo diciamo che la medaglia di Kazan mondiale, il bronzo, doveva dare la spinta, lo slancio, l'entusiasmo, la voglia di andare forte, e invece sono andati forte, forse ne vanno sbagliati. Stefano, un'ultima cosa, ed è una sensazione tua su Federica. Ma guarda, delle tre mi sembra la più serena, tutto se sarà un gioco più di tattica e anche ovviamente di nervi, perché lei ieri ha fatto un avvio veloce, una prima vasca veloce, probabilmente forse oggi la vuole fare al contrario, cioè un po' per, come dire, disorientare le avversarie, che sono due straordinarie campionesse, due primatiste del mondo, che hanno fatto già 2 ore con due primati del mondo, quindi... diciamo che se dovessi dire firmeresti per il bronzo, io firmerei assolutamente, perché comunque assolutamente. Sul podio è meglio tornarci assolutamente. Vedremo, ma Federica ci ha insegnato in questi anni che sta facendo. Grazie Stefano Arcobelli, diato della Gazzetta. Saluti. Dello Sport, che ci ha aperto le porte verso le 3:19 di questa notte con buone sensazioni. Anch'io firmerei il bronzo, perché sarebbe comunque per la Pellegrini oggi alla quarta Olimpiade un enorme risultato sportivo. Dicevamo, la Ledecky appartiene a un altro regno, appartiene a un altro regno, è una fuoriclasse assoluta. Tu ieri, Giovanni, dicevi, però quegli occhi quando l'ha guardato lottare in batteria possono promettere. La stava mirando e tra l'altro poi questa notte nella semifinale, a differenza di quanto fa di solito, Federica Pellegrini ha corso i primi 50 a fianco alla Ledecky e alla Sjöström, cioè quasi per mettergli pressione. Chissà che non stia costruendo un capolavoro, lo sarebbe anche una medaglia di bronzo, lo sarebbe assolutamente. Però le campionesse, le fuoriclasse, quelle che hanno qualcosa in più, io credo che Federica Pellegrini, se arriverà terza, sarà felicissima. Uh-huh. Ma oggi lei per il bronzo questa notte non firmerebbe. Tu dici? Credo di no. La forza dei nervi distesi, lei ha detto molte volte, mi sono preparata bene, è la mia quarta Olimpiade, comunque vada sarò felice, le crediamo allora fino a un certo punto. Intanto ancora in campo Sara Errani, che è sotto di un set e 4-2 con la russa, e non ci sono, mi sembra, grande chance per Saretta. No, è sotto con la Kazakhstan. Oggi ci sono anche Seppi contro Nadal e Fognini contro Paier, e poi ci sono i doppi, giocano entrambi i doppi italiani, e quindi questo è un programma ricchissimo oggi per il tennis. Abbiamo qualche secondo per dire che questa notte c'è un altro motivo per svegliarsi: Michael Phelps, che nei 200 farfalla cerca il primo oro individuale di questa carriera, e questo sarebbe davvero straordinario. Ha già tutti i record, eh. Pensa che se fosse una nazione, Phelps con le sue 23 medaglie sarebbe la 35esima nazione del medagliere storico delle Olimpiadi, eh. non di questa edizione. A proposito di mostri di persone non umane, poi come dice Leo Turrini, il problema di Phelps sono i 4 anni che Rolando su Bergamo domani, dopo le 18, per parlare della Pellegrini, che intercorrono già tra un'Olimpiade e l'altra, già convocato, ma convocato anche se vuole domani alle 14, perché noi siamo qui dalle 14 alle 15 tutti convocati, dalle 16 alle 20 tutti convocati, dalle 18 alle 20 dalle 18, non c'ha, 16-20 non ce la facciamo io e Giovanni Capuano, tutti convocati alle Olimpiadi. Grazie a Leonardo Sirigato e Lorenzo Rotelli in redazione, a Claudio Schiattone il nostro autore, a Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo domani, ciao, buona serata a tutti, belli e brutti, agli invidiosi. Convocati.